Oste, tu sei andato. Stefano, tu sei andato. Stefano, Stefano, come caghi? Ehi, io. Ebbene, me la be, morbidassi. Buffetta. Morbidassi, buffo. No, io mi sto guardando Alfa, quel programma a 59, del ghiaccio. Adesso vivono in mezzo al ghiaccio lì. No, mi aspetto. No, io me lo guardo, guardo ogni giorno. A me piacciono come fanno le cose. Cosa? Lo guardo quel programma. Ah, va, c'è anche a testa di legna, tagliendila sulla cesta. Almeno fa movimento fisico. Anche. Quindi, gli piace vivere in mezzo alla natura. Chi se ha ragione, ma cuganima. Gli altri invece hanno il cane, slitte, chi stupono, vanno a piedi su. Va, c'è anche a 59, tipo questo. 59. E anche a 49 molte volte, però sempre tipo questo, ma in più mi guardo sempre questo. Volevo dire 52. Non lo so, 52 non lo so, 49 c'è che è un programma tipo questo, uguale. E se no io in più mi guardo questo a 59, Alfa. Sì, 52 è di Max. Già me lo guardo qualche volta, però il più mi guardo questo, Alfa, questi che vivono in mezzo al ghiaccio, là. Lo stavo vedendo anch'io adesso. Senti, tanto l'ha fatto vedere Gigi per andare a recuperare le trappole per i cassoni, a dormire in un bosco, sotto un albero a 45 gradi sotto zero, dunia mare, salse su un focherello. Come ti, a me mi aveva lauto un secco. Cazzo, si guarda a me. Che è solo, che non c'ha neanche cane. Chi ci si fa di brulo bagno in leva ghiacciata, brulo ghiaccio. Secondo me sono abituati come te l'animale, vabbè i cani non hanno manco un ballante in camera, quei cani lì sono tipo i laschi, sono abituati al freddo. Ma perché? Loro sì, ma noi no, almeno io no. E non hai visto quel tipo di Cagliari che ha fatto, voleva fare tutto quel giro a correre. Adesso non mi ricordo come si chiamano, quelle corse che fanno, a piedi, no, sempre saltellenti. Chi si è congelato rimane l'anche, mi hanno tagliato l'anche e rimane, quel cagliaritano. Già lo so. E quello era in questi posti qua, che stiamo guardando adesso la TV. Che zitta, chi sei ma? E intanto nonostante tutto ci riprovano senso anche con le protesi. Uni amari. Ci provano sì. Grazie, praga arriva, grazie. Allora, a me non mi ha funzionato. Ma la verranno a pagare i taglietti, eh? Rosso, questo non so. Penso di no. Il principale tu ho sentito l'aria. Ma che succede da Gio Maria, bruciando tapparelle? Assolutamente no. Chi stamane mi ha mandato un video, Luca, sulla mascherina bruciando da fare il legno di Vici. No, io non c'ero. Devo essere la ciambata Gio Maria che vi dà via il legno in casa sua, la volgibile. O se la ciambata e gli si la farà di campagna a bruciarli. Sicuramente se l'avrà cambiato. Non lo so. E gli avrà cambiato Luca. Non mi ha detto niente, non lo so. Boh, non so, a voi invece che va via prima. Ma chi mi pare se ne aveva già ambato? Se te lo salone mi pare non se l'aveva già ambato. A chi mi aveva detto che era di lui? Sicuramente sì. Poi erano quelle che ci aveva la prima, le vecchie si aveva cambiato. E se l'aveva parlato in campagna. E a valle Brugelli. E Marina la vuole. Bello bene. Bello. Lavorando sta Marina. Chi io? Marina, notturno. E allora? E a che ora esce? Dipende. All'una, mezzogiorno e mezza, non so, dipende. Ah, non lavora anche la sera. Solo la mattina. Figlia. Ah, non fa 8 ore, no? 9 ore. Non ce n'è, no. E cosa hai fatto oggi di bello? Io sono andato a piazzare la plafoniera e bloccare una tenda, basta. E bloccare una tenda? Sì. Siccome si è attaccato il bastone, gli ho rimesso i tassilli e bloccare la ringhiera, avevo la corda. Ah. E non ha già fatto un down, cioè ha già fatto le piatte buche. Tu si vai travaglio. Ma non mi paga nessuno. Sì, si paga più a te, sì. Almeno a te ti pagano. Esatto, gratis, perché non ti travagliavi, non ti pagavano. Infatti, vedi, a te ti pagano, a me non mi pagano. È gratis, sì. Ma ti rimbrutti tu a te, sì. ma mi posso lavare solo lo mio. E invece mi tocca lavare pure l'altro, gratis, sì. Pubblicità. Pubblicità. Ma oggi non sono uscito, grazie. No, oggi no, veramente devi andare in buschi, ma tanto devo andare al capo domani. Domani è giovedì. Ci vado domani. Sono un'ora caffè, neppure mi ho bevuto il caffè. Mi ho mangiato una merendina. Mi ho bevuto un bel bicchiere di albicocca. Prestiti a Sassari fino a 30.000 euro in tempi record, scrivici su WhatsApp e poi invia un messaggio. Di voi 30.000 euro? Oi, ce ne date ne 30 e ne devi durare 60, se no di più. E già lo sai che funziona così la cosa. Vabbè, che li ho sempre presi io, già mi hanno sempre fatto comodo. Non è che non li ho mai presi, no, presi. A voglia. Ma come venite uno che ne avvia un altro, a vedere da finire. Purtroppo oggi funziona così. Se stai lavorando e vuoi comprarti la cosa non verrà lì, allora prendi un prestito, te la compri, te la sfrutti, te la godi, però ogni mese devi pagare, sino a restituire il debito. Però nel frattempo ti stai godendo quello che non ti potevi prendere prima. Non ti bari. Certo. Poi devi ritornare il quadro. Vabbè, non me ne è mai fatti giunta. Le portate ogni mese in bar, poi manco te ne accorgi. Io ho un prestito, lo finisco questo mese, quello delle poste. Molto. No, erano pochi, 3.000 euro. Ma spiccioli. Ma non ci sono quelle, né altre due se per quello. Però se non fai così non fai mai niente, non c'è niente. Capito, schiesi ti arribattere di là, non vorresti mai. A chi o ti rimani o ti arrivi chi ti da baga, cupris. E non ci riesci mai a farti le cose. Di questa maniera l'importante è che fai. Beh, bisogna pagare, se non paghi sei fottito. Allora, io prima di sposarmi la prima ratta era la moto alla Piaggio, avevo preso la moto a ratta alla Piaggio in Viale Portottoni, poi mi ho preso la macchina sempre a ratta alla Fiat. Poi allo stesso tempo stavo pagando la macchina, mi sono cucugliuvato e mi ha giubbato i buffi della camera da letto, oh, insomma dei mobili che avevo comprato e sempre i bagagli, sono una vita a bagagli, ma con fini di uno che fino di un altro di buffo, però se non fai così non fai nulla, non ti pigli nulla, se sei stato andato a comparatina sei sotto terra. Fate così e gai su conto, vabbè. Purtroppo la vita è così, magari avevi uno stipendio quando lavoravo di 3.000 euro, batti. Allora buffi non me ne avrei messo, a chi magari aveva agitato un mese, due mesi e me l'avrei comprata una cosa, un mese una cosa, l'altro mese un'altra cosa, ma è uno stipendio del genere che rubiglia, un operaio non si risogna uno stipendio del genere. E come fa? E poi dallo stipendio come fa? Sì, ti puoi mettere qualche ratta piccolina, però quando vai in famiglia, o i vivoni di là e di là che non vivoni. Lo so, grazie. Un casino essere. Un casino. I soldi, sempre soldi, soldi, soldi, soldi, solo soldi. Purtroppo se non c'hai quello, non c'hai quelli, non fai niente, non costruirai mai niente, non campi di manco. E come ti va? Vivoni sì, ecco perché ci vuole il lavoro, perché lavori, ti accontenti tu e paghi e vivi. Infatti, isso è. Perché vanno così tanto? Perché l'Italia sono bastardi, se tu vai negli altri posti. L'altro giorno, adesso non mi ricordo in che posto era questo. Lo sai quanto prendono i pensionati? Adesso non mi ricordo, in Gran Bretagna forse, forse 100 euro di pensione al mese. E non ce la fanno a tirare il mese con 100 euro di pensione, ma vi messo 100 euro e sono campagni con 100 euro, anche se non ce la fanno molte persone che hanno intervistato, con 100 euro, ma te immaginate quanto costa la cosa là, una cazzata. Se io so qua con 100 euro non prendi niente. E lì ci campano tutto il mese, anche se arrancano, però vedi, campano tutto il mese. Se è la gente infatti a Paolo, io mi andata a chiedere quella pensione, cosa, allora mi facciano i ribiti che c'è gente. E lì se un pensionato se ne va, fai la vita da rete, ti puoi permetti l'autista, i gamarini, la donna di servizio, tutto. Ti leccano i piedi se vai in quel posto lì. Io lo so. Non è come quando. E a mangià, fino ai baribucchi. Boh, oggi tu, come cavolo fanno questa gente a vivirsi? Boh. E chi lo sa? Io non lo so come ti buassi. È capace che andi chi vedi tratta le vede da vedi ma se ne pure abbaffurati in ritina e t'ammazza nel muro. Il pericolo è quello, lo so, grazie, purtroppo è un casino. Io che in Italia li diranno fare di nulla. Questo è tuo, di fai un'uscita, andi a farti la impresa. Ma curi vedi, non ti compri neanche tutto quello che ti dovresti comprare. Solo di spesa alimentare sto dicendo. Lo so. Quando pagano un cavolo su. E poi non lo vedi, Givi, cattedina vivuni, e comincia a pagare, e luci. e Mondezza e Tassadeva e Affitto e Ratta e Ghiccio e Ghiccio, non ti rimane un cavolo. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Vabbè. Boh. Roba la macchina. Che se ne ho travagliato sabato, domenica, di Natale, di Bacca, di tutti i vecchi ho travagliato. E due sabati che ho travagliato e due domeniche, è da bella cosa. Pannuzza, a chi tanto? Finiti di travagliare, ci dai qui, magari passavi al negozio. Tutta la discompensa, magari per 50 euro, e il negozio ne pingi 55. Lo so, cazzo oggi quattro ruba 30. Chi se frega anti buschi? No, ma quando travagliamo, quattro soldi e drittare un negozio, a pigliare chi tu, ma figuria chi tu, tre secondi pariti di dinari ti hai fatto in tutta la di facendo di lungo. Ma come in 5 minuti? E per guadagnare in tutta la di. Lo so. Lunghi, vabbè, siamo perdere, va, lo tocchiamo a quel tasto. Purtroppo è così. E poi la macchina, io la dovrò solamente andare a lavorare. Andate vicini, mi sono andato un po' che nuda, sì, che andavo in Uvaggiano, quel paio di anni che ero, che non ero sposato, sì, che mi andassi a giro, ma non c'avevo tutti i buffi che c'ho, che c'avevo una volta che ti sposino. Oh, va via la ratta della macchina e bu. E la sua lasciante, infatti, cioè me li conservavo anche io in banca, ne avevo soldi conservati in banca, mica me li mangiavo così come te le macchine, non saranno. Mi tenevo tre, lo diavo e me li metteva in banca. Ci passavo un po' di metterli in banca. Ma prima già faceva. Ah va, cosa cazzo buono, ah va, non vai a campare, cosa ti rimane, niente, si costa tutto un caro, fra poco paghiamo l'aria che ripigli, bisogna di mia esci fuori di casa, ci vivono di là, uno di giri, apri la bocca e vivono di là, o no? È meglio che ti tieni in casa, poi ti rimpendi. Non ti crede, no, anche se rimani in casa già li spendi lo stesso, ma per dire no, ci esci. E andi, magari l'intenzione è di andare a farti un giro. Esci, cazzo, vedi quello, vedi quell'altro, cosa fai? Picchia il cupareggi. O no, e ridinati se ci ne così. Lo so. Lo so, grazie. Se ci vuole questi dietro in Russia. Oh, ma so con una vita bagagli, ma se la biglia in cuore, impucciate che pago da voi, quello che sarà, sarà, non per la canzone che sarà, sarà. Sarà perché sarà. Ehi, ricchi e poveri, ti lamenti, sarà quello quel che sarà, ti lamenti, ricchi e poveri, il duetto, due femmine, una bionda, una nera e due maschi, uno nero, uno biondino, va. E allora, mi questo lo faccio da casa. No, io mi è antipatico, me lo guardo qualche volta. Però il più son già dati di quelli, anche di quell'altro, ma questo per dire che ci oggi l'ho già visto e ne l'ha già studiato. Ma. Vabbè. Vediamo se c'è Luca Flipper, se risponde. Flipper, ci sei? Non c'è. Devo dire ancora pure nel buco. Sarà muscia. Sarà bruciata, che sarà volgibile. A chi finirà un due o tre mi vanno accattassate. Nel video che mi ha mandato stamattina. Yeah, no. Ma ha detto che va via la mascherina, che fa di anni un bel fumo che si è avvolgibile. Ho capito. Vuol dire erano verniciate quella avvolgibile e facevano fumo quando le ha messe a bruciare. Sì, ancora si può bruciare ancora. Da giugno mi sembra che già. Da giugno? Eia! Beh, non entra nessuno, tutti morti sono. Tore è sparito. Marino sarà drumito. Rosmarino. Ma chi se sarà in miseria una crepa? E allora? Allora, oggi cosa buona hai mangiato a pranzo? Io ho fatto pasta e ceci, un po' di polpette di ieri mi erano rimaste, e poi cosa ho fatto? Ah, c'era l'insalata cotta, e poi, ah, le cozze, ho lavato le cozze. È andata a Paletta lì, dove c'è il treno, alla Cona, dove sei, e ha preso le cozze. E cozze? Io ho mangiato brodo. No, quello l'ho fatto lunedì. Oh. Il più lo faccio il lunedì io, il brodo. Una frutta, perché questi giorni non sto bene. Questo è un cavolo di cambio allo stomaco, quasi pancia. C'è un po' di gastrite. E chi lo sa, boh? E prova a non mangiare cosa fritta. Io non mi affetto, non lo sto mangiando. E boh. E il brodo per dire se si ha mal di stomaco è contrario. Di cos'era? Di garri o di pollo? Pollo. Ah, il pollo sì, ma di carne se... Se c'hai mal di stomaco, è troppo forte e fa dei mali. Infatti lo sto. Infatti lo sto guardando un video adesso. Devi dire le banane. Le cose, quando c'è anche a mal di stomaco, le cose caloriche, non le devi mangiare. Roba che ha molte calorie, non le devi mangiare. Se no ti alterano. Lo so. Cioè avrai un po' di infiammazione, boh, un po' di gastrite. E bisogna stare attenti alla gastrite. E la gastrite è mala, puzzinosa. Lo so. Che... E invece a me mi fa di male sempre il suo fianco, il suo rognone. Stamani mi voglia la gru. E la poi mi ha tutto in terra e su di l'ossigeno, che oggi me l'ha regato, l'ho telefonato ieri a portarmelo per oggi. Più che se lo poteva venire, adesso ti dice di Masani giusto, l'altra volta giusto adesso in mezzo. La gente ha fatto prima cucate in occhi, boh? E però cosa c'hai? Ah? Cosa c'hai? E come cosa c'ho? Ma che sudori? E cosa faccio? Nuda, mi rutengo e cosa mi piace? Mi disegno. Se mi fa un bel male mi prendo un attacco epidina alla mille, come mi ha detto il medico, se c'ho molto dolore. Però se è un dolore che sopporto, mi ha detto a non prenderne. Solo se non riesco a sopportarlo me la prendo, capito? Perché poi anche se te ne abusi, anche se c'è un dolorino così, poi a pure pigliarli non ti funziona, quando non fate il bieffitto, o quando va un bel di dolore ti abusi, non funziona più se ti abitui a prenderle spesso, anche se c'è un dolorino così. C'è un dolore che posso sopportare, non ne prendono. Se vengo qui non lo supporto, che sto con bel mare, allora me la piglio, capito? se no, ui, ah no, cioè mi abbassano tutti i sigipidi, molte volte cerco di evitarle, anche se mi fa un bel male, cerco di evitare a prenderla. Lui dice la sua maledetta. Le medicine di sana non abbatte e ti gribano all'altra, non lo so, Gucci. E dunque non è che si possa pretendere più di tanto. Dunque io le prendo solamente se sono obbligato, quelle sì. Però per dolori, se riesco a sopportarmelo, me lo sopporto. E faccio a meno di prendere la pastiglia. Se non ce la faccio a sopportarlo proprio in opera apposta, allora mi piglio, capito? Io posso così. Quindi a prenderli quando proprio stai male. Quando vedi proprio che ti fa un bel male, che non riesci a sopportarlo il dolore, allora sì che me la prendo, capito? Ma se riesco a sopportarlo, a fare il distratto, brusetti duri, e lo sopporto, non ci penso, capito? E ti fa meno male, ma stanno pensavi, solo ma la sorte già fatti male, adesso che sono occupato e mi fatti male, allora me ne sono occupato, sono andato in terrazzo, sono condurrato, prendere un distratto, mi fatti male, ma di meno sembra. Sono come ti dici la capirassi di te. Così, cosa mi fa? Ma lui è all'ospedale, quello che era vicino a me, ha dei canti cosi di italiani maro d'urori, di canti volti milani d'altra, non rifasia più effetto. Tu mi azzecchiri, nonostante gli avevano dato un sacco di antidolorifici, ma forti mica, sono pure vietati, non te ne danno se vai in farmacia a comprarli, ci vuole per forza la prescrizione del medico per comprare quelle cose lì. L'auli, da voi non so cosa l'hanno dato, insomma un bel di cosa l'hanno dato. L'hanno fatto pure la morfina, chissà che va più io. Beh, lo basava a mezz'oretta, da ben mezz'ora a rassicchirli, da ridurre. Quello dell'incidente, mi chiama, quel tipo dell'incidente che aveva avuto a Bancali, ma a Canica, chiama a Bancali in Galina, quel tipo lì, mi. E che tipo, grazie? Che aveva avuto l'incidente lì vicino alla motorizzazione, chi si era incidinato alla sua macchina, che muso video della sua macchina, e la cugnata di Edo e la fianca Edo era in coma all'ospedale, non te lo ricordi? Ah, e beh? Quello, oltre agli antidolorifici che gli davano, ma potenti, mi lo basava a mezz'ora e poi la dovrà sicchirri da prima mezz'ora. Vuol dire che la dolori? C'era tutto fratturato, va via pure un tubo e ha un fianco che entrava in tutti e due i polmoni, perché le costole gli hanno bucato i polmoni, come se vi l'aveva fratturati. E va via un tubo a un fianco, dentro, entrava dentro e prendeva tutti e due i polmoni per respirare. E poi c'aveva tutte le costole fratturate, l'osso di là anche fratturato, il bacino fratturato, lì non camminava, era sempre coricato con tubi contro tubi, macchinari. Era proprio messo male. E tutto fratturato, ma e già lo credo, e gli antidolorifici più di quel tanto no. Non gli facevano mia a calmargli il dolore. Ogni mezz'ora era sicchirri. E allora un bel giorno ci suonavo pure io. O andavo e gli chiamavo a venire a chi sta a amare. Vabbè, già la sua coscienza. Ma mi ha detto che non si è avvisato di nulla. E mi ha detto che non era embriaco. E l'ha detto, ma scusa, C'era in quattro, mi ha mai detto in quattro, ma avevi diviso 14 cacce a 14 bottiglie di birra. Tu dividi le 14 bottiglie di birra per uno, quanto ve ne avete bevuto? Oh, tu quanto te ne hai visto? Tu dividi 14 bottiglie e da me mi dici, magari come 5 ampulle che ti hai visto, non eri gusto. Poco vi credo. Boh, lascia vedere, aspetta un attimino. Mi stavo scrivendo, ma... Capito, mia. Quando la gente così non mi ha riposo, Maro. Mi 14 bottiglie di birra, bevute in quattro, sono un bimbi. E mi dici non hai superato il tasso alcolico, ma non ti gagli molto. Ma comunque mi è carina. Ehi, chiaro che si era rimbusso. Sarà l'infermeria in carcere, ma sempre a bancali. Pure si va via i dubbi, quello si c'era attaccato e tutto. Sicuramente già virano il burro nell'infermeria che c'è lì a bancali. Però se l'hai buttato Roma stessa che sta. Io so. No, a chi mi vedrà? L'altra volta mi stava appuntigliando che era all'ospedale e poi sarà così. Se non vogliono bucciacando quei due, chi mi ripidare? E l'hanno detto, fra la settimana ci vediamo. Infatti oggi batte a dei mini e di buttarne in giro romato essi. Lo so, l'ho visto, è uscito anche il giornale. Chiaro grido. Io vi l'ho detto di pulire a posto un capo, adesso ti paghi quel danno che hai combinato, quando ne esci, piano piano ti metti a posto, senza fare un macco, come hai fatto, e vi l'ho detto in faccia. Cazzo sei burro, con una migliore doia, una nata a morire del precedente marito, anche una che va via una sua figliola, se ne è portata a capo con due figlioli. Tu adesso quando ne esci da galera, te lo metti a posto il cervelletto e pensi, ma te e casa tua e tua moglie e tuo figlioli, che i grilli li hai già finiti, non hai compreso? Sì, ma è stato una combinata, lascia perdere. Io gli ho dato un consiglio buono, poi quello se lo vede lui quando ne esci dai vivi, se non ne esci biccio. Sempre a favore suo contro di lui e me, non hai capito? Chi non risolve un cavolo, poi ci delinquenti canto di biasi, non risolverà mai niente, se non si buona poi te lo salvito. Ma io sono andato in bimbo, grazie, la buccia ultima, non andato. Già ce l'avrà mezzo macco che l'avrà, e quando mai 30 anni si rassenterà, non fermenterà il cervello. E io penso di sì, lo vedrà dal buono al cattivo quando è che vi dritto. A chi che vi dritto gente macca ne viene più male di etto, o no? I cattivi sono i marocchini e gli albanini. Appunto, viene gente peggio di etto. Chissà che ci ha sentito a rusare tu. Ma non fa carizzare. Sì, da minori. La maggior parte di quelli hanno fatto tutti la fine di Checco, tutta Santo Mauro, su. Non posso immaginare. Era Gigi la morte e Maria si voleva mangiare il mondo. L'hai cotto una bisola da capo, ce l'ha mangiato in un secondo il mondo, sotto terra. Se mi va a comportarsi bene. Peggio baito, si gridiani, farfelletti, chissà su buco, povero scemo che è. E cosa hanno avuto? Nulla. Purtroppo grazie, è quando la gente è guasta, non c'è niente da fare. E io guasti, non ti conosci un bei, ma un bei. Tu e io? Cacchè di uno che gira ancora, è diventato barbone. Per da fine. Non lo fai più, ragazzo. Per carità, che schifo. È la domanda delle voci. Ma poi che ne manca le voci, no? Le tassine se lo vedi. Uno che non ha manco coraggio a domandare le musica, a chi la gente miserabile non ne hanno coraggio di andare a chiedere le musica. Segreto. Magari tentare sempre di intrancio o di truffa, compreso, però andare a domandare, come te ne vengo io, bovaracci, che andare a domandare, non ne ha balle. Certo, non ne hanno. Per carità, io sapevo, bello mondo, cioè bello mondo, il mondo è bello, è la gente che è castigata, la maggior parte del più. E allora? Chi si crede di mangiarsi il mondo, non si l'ha mai mangiato nessuno il mondo, chi se poco ma sicuro, allora vedi. Oppure io non posso vedere nemmeno quindi che andare a truffare a un altro. A chi tanto cosa hai da voi? Non hai nulla. Non hai nulla, no. Tutto lì rimane. E canto una giugunicidio di chi si stira a ridiani. Quando sono crepati ha giusto che rimarci tutti i nobili. Non si sta portando nulla a nessuno. Non solo, li vivi si la rispartiziata la roba che tu vedi ne ha un bel no, alla faccia sola, soffia, si la rispartiziata. E magari gli dirà la vita a caniti, se sei butti a un all'altro, ma entranci a futti. E che ti si l'ha rimaniato in giro di un mese, tutto il bene che si aveva accumulato. Puttene a uno all'altro, assai per brutto. Come puoi? E allora, dunque, ben vedi com'è, quella la paga a me, e sì. La paga che l'aspetta. L'hai visto quello che ci ha mandato su WhatsApp, quelle due fanciulle? E io l'ho visto. Simpaticone, è vero. Sì, ma simpaticone. Guarda il tuo cazzo! I tesi dai! Lu! E che li ho sentite? Se me l'hai mandato? Ehi, ma la giubbucci mi la via ai nocchi. Di tutti l'inventa, ne ha? E come ti gira a ridini? Hai visto l'elicottero che ho messo su Facebook? Cosa? L'elicottero che ho messo su Facebook, l'hai visto? Ehi, che stava volando in alto, già l'ho visto. Ma cos'era, un modellino? No, lì all'Inps era. Lì a? All'Inps. Ah. Io mi sono seduto sull'elicottero quando era per la TV, quello militare, quello a due pale e quello a una pala, tipo quello, quell'altro più piccolino anche a due posti. Ce l'avevamo per la TV, c'era l'hangar elicotteri, la pista degli aerei, ma non gli aerei militari. Sì, vabbè, era lì era. L'hanno caricata ed è collato. Lo sai l'elicottero, quello piccolo, quando mi mettevo e fanno di servizio all'hangar elicotteri, quando arrivava andassi alla pista che dovevo entrare dentro nell'hangar, carrello lo sollevavo prima a destra e gli mettevo questo binario sotto. Poi dalla sinistra lo sollevavo, l'appoggiavo sul binario, poi c'era un carrellino, no, tipo un carrello, e ce lo spingevo dentro l'hangar elicotteri, gli facevo rifornimento di centilene, segnavo quanti litri ne avevo messo, prendevo le ore che aveva volato, lo segnavo tutto in un foglio e lo appendevo dentro, c'era un gancio, un cartellino, e la appendevo lì. Che anno? E quando ho fatto il militare, cosa va via? 23, 24 anni. E lo lasciavo pronto lì. Poi il meccanico li controllava l'olio, le pale, però il rifornimento glielo facevo io di centilene, perché funzionano a centilene quegli elicotteri. Ho capito. Adesso funziona a cosa però? A gasolio? Non lo so come funzionano adesso. Prima funzionavano a benzina, a centilene, a gasolio non ne ho mai rifornito elicotteri. A benzina, a centilene, sì, a gasolio non ne ho mai rifornito. Sì, vabbè, cherosene, boh. Sarà un cherosene, una specie di cherosene, non mi ricordo come si chiamava l'altro nome. Però quello piccolo e quello medio, diciamo, li rifornivo io a centilene. C'era la colonnina, tipo la benzina, solo non era benzina, era centilene. Cos'è, tipo benzina, usa? Lo bianco si assomigliava un poco. Non era benzina, benzina, però. E ma mentre si chiamava così centilene. E segnavo i litri che ci stavano. E poi la prendevo dentro in cabina e con quel carrello lo spingevo dentro l'elicotteri, lo lasciavo nel parcheggio, il numero ci mettevo, c'erano numerati dentro in terra, no? E niente, poi lo arrangiava il meccanico. E beh, per forza, lo devi controllare. Ogni viaggio che facevano tutti, ma anche quando era l'autoreparto, dove c'erano le vetture, i camion, anche le macchine, i camion, ogni singola camion, macchine, moto, era registrato tutto quanto. C'era il chiosco, un gabbiotto grande, con computer vecchi, i registri. Ogni giorno per giorno era tutto registrato, a che ora uscivi, che mezzo avevi preso, dove dovevi andare, a che ora dovevi essere di ritorno, tutto c'era. Quando rientravi dovevi firmare quel registro e mettere l'orario e tu confermare che a fianco alla firma e quello dovevi confermare che era rientrata qua. Era tutto registrato, non piscia manco un ciolo dagli vidrenti, se non avevi permesso di sci, capito? Col cavolo ci uscivi fuori, né in macchina, né in aereo, né in elicottero, con nulla, ma capelli pulisci, se non avevi il permesso. Beh, per forza, penso che sia una cosa normale, anche in un posto di lavoro è così. No, in un posto di lavoro esci, andi, dormi, lì c'è tutte le volte che io per dire uscivo al paese lì. Dovevo avere il cartellino attaccato alla bitorra con il permesso firmato del capo reparto. Di dove eri tu, ogni reparto c'aveva una sezione, capito? Vabbè, comunque eri sempre controllato, dai, alla fine. Eri sempre controllato, sì. Noi puoi fare, chi si che vuoi tu, no? E allora? Anche dentro lì, c'avevi il posto di lavoro. Oh, guardavi la tabella, l'indomani per dire ero in mensa ufficiale, l'indopodomani per dire eri col camion in curve, sotto ufficiale, perché è grande mi dentro lì a parlare di voi, è una zidai. No, non so mai stato, non posso immaginare. È una città, c'è lo spazio che è come un supermercato. Cosa devo dire, tipo la Gonat. Poi c'è il cinema, ci sono gli spazi, non ce n'era solo uno spazio, no? Facessi così, i campi sportivi, di calcio, di calcetto, a racchette, tutto è una città. Io sono stato, non mi ricordo, Campo San Lorenzo. E anche lì che è bello, però guardate voi, è enorme, non finì mai, è tutta zona militare, a parte il paesello, che c'è, si quattro gazzi, e ora c'è tutta zona militare, è enorme, guarda che macchina, me lo giravo io in un giorno, non ce la facevo neanche a girarmela in macchina, quando per esempio mi mettevano i curvi, mi andassi a burro in giro, no? Oh. Eppure non ce la facevi neanche a girartelo tutto. Dunque. Perché è grande, normale. È enorme, te lo sto dicendo. E poi anche è bello perché ci sono i giardinetti, noi non per nulla. È come una città, i giardini ci sono, con le banchine. È un po' di roba, vedi. Vabbè, ormai qualche anno sono passato. Mare aggiuvata, non punirà ferma. Siamo inibili, si è troppo vecchio. E poi era bello. Poi ogni venerdì ci avevo il permesso, salivo a casa da mamma. E poi la domenica a ritremi in andazia. O in autostop o mi pigliavo il treno per a Cagliari. E da poi si cavo un passaggio a perdersi fuoco, o a scalaplano, che era già era vicino. Poi da lì già ne trovavo un passaggio, in autostop. Beh, certo. E io sono quel pullman, c'era il pullman da perdersi fuoco a Cagliari. Ma però io molte volte me ne scendevo sulla 131. Di affermarsi qua, me ne scendo qua, sulla 131, e mi innalzavo in autostop, farsi a prima di pigliare il treno. Vabbè, prima di questo, adesso autostop ne fanno poche gente, non ci sono più tutti. Oh, io non ti posso più nessuno, con tutti gli sì che succede, magari qualche camionista ti può sedere. Ma le vetture poco ci credo, non ti posso avere nessuno, tutti gli succedenti, oh, magari qualche camionista già ti siede ancora, ma gente privata, raro. Oggi sono tutti in coma, mi assento 5 minuti, Lu. E passo qua. Ehi, Lu, non mangiare. Magari. Guarda se c'è Flippero, chiamalo, che non si sente. Ehi, ebbene, c'è nessuno. Ciao, Giomadi. Ebbene. Ciao. E te ci sono vagente? Ehi, Rosi sono, mi, Giomadi. Parlavo così. Giomadi, Rosi sono. Ah, così è, bebo. Giomadi. E te bada. Sono Rosi. Sì, dentro la ciambolana. Ciao Paolè, mio marito Paolè, è la moglie di Graziano, guardate, sta dentro la ciambolana. E adesso non ti sento bene, non si comprendi alzura. Ebbene, non fai lo scempio, ho appena muglio, No, sta venendo subito che è all'ufficio, ciao Gio Marie. Davvero? Ehi, ma lui, ma non mi intendi? Gio Maria, non so cosa rudenne, non mi sta rudenne, boh! Sì, Vicente, ciao Paoletta. Gio Maria, non la senti a Paoletta? Lollo? Come no? Aspetta un attimino. Mi sa che oggi è solo il nome di Gio Maria Paoletta. Boh! che sta venendo? Bello! Sono. Che è tratto, Gio Maria? Sì, si è assentato. Ed ha fatto l'entrata dell'Ulione. Vabbè, pare famiglia di gruppo due. Catta, ora ma trova fino più quando inizia a fare dai. Bubu. Ebbene, brutta. allora, lo mette te che ha bussato in poltrona, mettete alla 50 che travagliete e tu a mai tendi. E la mezz'ora Paoletta, già menditi, ma dove sei? No, non li intendiano. Se la quattro già menditi, ci sono tempo. La gente vuol dire non va parecchio. Vuol dire che se mettete un po' bisogno a una Reci mi devo comprare l'app in fondo. Presto è uno perché salutamela comunque a Paoletta, dai, che non l'ho sentito, l'ho sentito adesso da lontano. Sì, buonasera Ru, eccami la Reci, va. Ma ce la fa, a manca ammazza l'ora, e tu lo sei venuto a rubare a chilo. Certo, ma ce la fa, a manca così paga. E beh, tu sei pronto a giocare, tu sei pronto a mangiare, che l'ha stato un bel. Fatta, ci ha pigliato un salamino, no, ma grosso. E lungo 40 centimetri. E poi c'ha magna, finalmente ha divorato, no, non l'ha finita, eh! E tanto dobbiamo ripiazzi di Bogu. Sì, per un'ora, ma niente, gatta. Gatta, finalmente che non ha divorato, no, non si fremo, a voi i panali, due panali sono mangiati, boh! Oh, già dite a me che sono mangiati il trucco! Atta, da me a passarsi non di fate il prosciutto e l'insalata, isso, gatto! Isso si rimane crudo e tutto, non si sa seccare! È ingrassato un bel, vero Luca? Illu! Ah, c'è la magnaghi, devi immannare, devi ancora minore, devi immannare ancora. Eia, rarità, ma non te la ne accorgi più di me, invece avevi scappato, di casa tua. Non l'ho capito adesso. Cos'erano quelle avvolgibili, quelle vecchie di casa tua? Cioè, filmatela. E sta finendo buco. E qui c'è già sempre carreni. No, qui ci sono tutti serrati, che andano in giambato i serrati, mi rifatti là, no. I longhi. E si buttano a campagna. Ma c'è che venire, una sciarata. E voi già abbiamo bruciato tutto mandato a mese, bruciati da me. Come verani, per carità, gatta. Vabbè, se erano verniciate parrucino si via, ma se erano verniciate bastava a bruciarle. Tutto abbiamo bruciato, avevamo fatto una piazza pulita, avai, è bello, è tutto pulito, bello, tranquillo e bombo, va. Ah, va, ma va pure a passeggiare i givi. Beh, caro Grigio, intanto cosa ne fai? Ma se la riverniciate, chi si ha arrucino fa ziane? Fa calcite, fate una mal di gaffo a chi ve la vernice. Dunque non sepili, vero Luca? Beh, secondo te, ha fatto bene a bruciarli. E solo di via riga in chivi all'autoparco. E poi verani per tavoli, verani, gatta, boh, tale sotto misura c'è cattolina, tale da che si cabina, tra un vascone e la cabina, quindi poi dall'attrezzo, era dietro di tavolo, ci pratichi, gatta, gatta, il martello, insomma, ha fatto piazza pulita, ha fatto tutto pulito, tranquillo, è andato più bello, là, la macchina è più presentabile adesso, prima balia un capusato, tutti, là dietro, vieni, vieni, per carità. Ci ho buttato tutto io, non venuta. Cioè la legna e le pedane pulite, che ci vuole trattarsi di rubogo, arrutti, quelle pulite. Tutta l'altra roba ce l'ho tutta buttata. Ma se lo sto dicendo, ho fatto piazza pulita. e c'è Giuseppe Carrera, c'è Pandauri, migliaia di rimbucciato, poi mi lo bruciamo piano piano, però non vanno per più niente, tutto, un po' di legna si la abbiamo bruciato a Tino, 2 anni fa mi pare, ma va a finire un po', un altro poco, a pezzi, tagliato a pezzi in modo che si buccia pure dritto la stufa. Oggi qui ci si era appoggiato la cascetta ogni tanto, Luca, e si va di fuoco e tante, io non intrattono, poi non ne posso più, io mi cacchio puzza, ma ho fatto i sacchi di carbone, buh, dici, man, per cui lei non usa poco niente. Tutto ha fatto bruciato, tutto, ma non per nient'altro di bruciato, così che è tutto pulito. Campagna da me lo stesso, tutto il barruvetto che va via, tubi, e contro tubi, e cosa che non mi si via, tutto buttato, è tutto pulito in campagna da me, non viene più mondezza. C'è solo la legna che usi per il caminetto e le pedane che sono tutte assentate a dare dalla casa, non si vede nel manco. Tutti vanno accatastati, però ferri, ferraglia, tutta questa roba. Tutto ciò, tutto buttato ci abbiamo. Un barruvecchio l'abbiamo da chi ci fa di barruvecchio. La sta roba giù telefonando al comune. Ma dice la metta fuori dal cancello, tale giorno passa al furgone e porta via tutto. E così aggiù qua. Ehi, ferro, ti dico, ferro, me ne muoio, si è appoggiato un furgone pieno. Ah, bene, si è appoggiato un furgone, tubi grossi, tagliato a pezzi, poteva servire, ma l'ha giocato tutto, me ne muoio, si è appoggiato un furgone pieno. Gatta, mi pare che ce l'ho per la macchina. 400-500 kg di ferro, mira, si può immaginare, un furgone pieno a zeppa. Tutto, ma non fosse niente, boh, no, basta, deve essere pulito come ti va, deve essere sempre così, va. Boh, no, e prima magari, vai, poi se vi domani, chi c'è il sastro, per la male, come te, non fosse più niente, per cui ha fatto piazza pulita, boh. E che sta giudicando giusto, ma c'è motivo, chi vede, chi trattavo e la tenia lì, però ce l'ho buttato, anche le cagnette che usavo, navi, roba, sì, cucarrioli venivano, di cagnetti, fatte da me per quando le usavo, quando stavo lavorando, tutti i misuri. Tutto, Gio' Maria. Sta giudicando pure la piastra della scandoliera, per la scandoliera, per travagliare un ferro, no? Per fare il traffico con le trafile, pure quella ci ho buttato. Tanto si era tutta ruggineosa. Vabbè, già era buona roba a te, però ce l'ho buttata lo stesso. Ma tutto, niente, nulla ho lasciato. Ci ho buttato anche il giroletto di camera da letto mia. Lì comodì. No, no, aveva smontato pure un letto matrimoniale, un cantarano, un ammadio, una seianti, e per aveva giunto a Darito, in mezzo all'epa, che è tutto frasico, no, pure qui tutto una giocata e bruciato, boh, va, ripeto, è tutto pulito. Avevo dato tanta lettera, i confini, mezza pulita, e ci sono presenti, la mappa in piazza Italia, male. Troppo mezza, così mi piace. E la mappa non carro più niente io, prima c'è la sempre carrese, la mappa non carro più niente, ma si veglia. Oh, io ho lasciato il camera da letto, l'armadio, il comodo e lo specchio, tutto il giroletto ce l'ho buttato, bruciato, i comodini bruciati. Intanto è difficile che vi parlo, ma a te sta cucando, dunque non me ne ho fottuto. La roba è valida di campagna, 30 all'armadio, si era tutta gittata. Li volti rumateci, si trattava in campagna. Niente, ho lasciato qualche maglietta, così qualche golfo, boom. Tutto il resto si era gittato, non me ne ho fottuto. se non arriva più lì, dunque non mi interessa lui. Luca! Ehi, ragazzi, a me. Non c'è quel pane gustiavo, ho di assale, buon aretto, eh. Senti, stammi il baron dromedario, russo e no, io mi ho mangiato una merendina poco fa, bollarina, soffice, soffice, con la marmellata e un bel caffè. Merenda, dai, roba leggera, che è buono. Allora, Giovanni, hai fatto piazza pulita? Ma, sintatici, Giovanni. Ehi, ma rifirmate da mandato Luca Notte, chi si serrati? Ehi, stamani, ma ti ci chieda con la mascherina. Bel lavoro ha fatto, gatta. Solo Barretto ne mancava, a fine, solo Barretto ne mancava. Ma io mi l'ho immaginata che era in campagna Giulia, sì, a Giulici di un gradone. Ehi, gatto, come si fa, bisogna fare, io non potevo fare niente, ha fatto un duetto. Io non potevo fare niente, no. Oh, cari, ma era tutta la vita, ma tutta la vita dolore, non poteva il bobino manco. Ma con camminare poteva, puoi immaginare, ogni tanto mi bussavo, e... No, ci avverrebbero venne, dice che... E che siamo andati, ci avevamo bruciato tutti, tutti e due, così che... beh, la pulizia avevo fatto, là. Già ci voleva dopo tanti anni, ma è bello, tranquillo e pacifico. E meglio non me l'ha detto che era in campagna da te, la riconosci tu che era in campagna da te, dal gradone unirà Brugeni. Ormai già si conosce la campagna, no? Io mi la metto quella campagna tua, ma... era un gradone, chissà, già me lo ricordo io. Quello è più avanti di dove c'è la cabina, là, diciamo, lì li hai bruciato. Sì, avanti, bello, là, come ti... Vai, ti avviso il cancello. Cosa ti posso dire? Un giacino. Un giacino, ma non li vedi il lungo. Vedi, sono i bianchi, tutti anni germogliati, una frutta, si vede, il barracocco è maturo, un cacco, e accanto, e se prende su cacco che pozza, e che stanno, hai fasciatura, gli anni belli, ma è un bel fiore, ma è pieno, e pruva per un bel... Fai un profumo dell'aranzo, no? Anche tutto fiorito. Un profumo, dai come si fa a tirare un calcino, mi intende un profumo, una cosa incredibile. Speriamo non fosse a... va a volte, grandi, anche se non li rampa tutti in terra. Speriamo di no. Sì, abbaglia un tempo. Non ti ripiace che fosse. Dai, di una lampada, poi te la compreremo la cosa, cosa vuoi fare? Non vediamo che sta mangiando, pure di lampada un fiore. Se fa di grandi la lampada, un fiore e tutto l'altro, non la dici un continente? E ieri al telegiornale, quei vigneti, pizza i rami di l'uva, la troncate con l'uva piccata, i rami... E dei vigneti, tutti spezzati, gli si dennari e dennari, con i rametti già di l'uva attaccati ai minoreggi, tutti spezzati, ogni abubione di grandina, già lo credo l'ha crebato. Ehi, lo che burro ha fatto la grandina, quando era fiore, l'uva raccocco, la bruna, la bruna limoninca, il subito ha fatto la grandina, la sai che non l'ha lampato, insomma, fino a poco quest'anno, poco a chi la grandina che se ne ha lampato tutto quanto, per cui il vento, ma raccocco io fine, a canto ne vuoi, cazzo. Altri burri ratti bieri che non finì più, cioè tu ne nato all'altro, a grappolo mette l'uva, ma un bel, e così è un cacco, a fare un cacchio, cominciato a aprire luce, pa fiorino, no. Ma Maria, speriamo che non piovia, ma qualche cosa mangiamo. Luca, avevi preso il tuo viaggio, mi sono entrato un bucone, da un capo non è entrato, tu... Luca, ma se mangiare, passa al forno, vero Luca? E allora impegnato, passa a tenere la doccia. Grazie. Allora adesso, boh. Ah, te, un entrato bucone, aspetta che l'ammazzo. Io ne avevo due ieri notte in camera, due muscoli grandi. Morto, pugna bucone, chi ce n'è entrato dal pianerotto? Vaffanà, però non puoi aprire la gianna che ne entra. Lo state per qua con la bicchia. Vabbè. Tocca in capo, boh. Pugna schifo, pucci, grasso come un maiale era. Mi assomma di grassi, ma la giurti. A Luca ci assomigliava, si chiamava Luca, infatti l'ho chiamato. Luca, fermati! E lui? Ciao di Mari! Dove è andato a mangiare? Boh. E Luca Flippa non si è sentito. No. Come ho fatto pane guttiao, salato. Con l'olio, buona rito, Allora oggi già travagliato, ci ha rotti valette di pollo arrosto, mi. Oh lui. Beh, allora. Allora, il pollo è così di farfalla. E allora, magari avrai già cominciato a prepararsi il barbecue. Luca, lo sai che stamattina ho visto il decespugliatore? Lo sai quanto costa se lo ordini dalla Cina? Allora... 67 euro più 11 euro di spedizione, arrivo in 6 giorni, Corriere Espresso, 11 euro di trasporto però, devi pagare. Che marca è? Eh? Alpina. No, su Amazon l'ho visto, nel telefonino stamattina. E lo vende Swishy. Buono, quanto è? 50. Costa 67 più 11 di trasporto. Ce l'ha appoggiato una ditta italiana qua. E ci mette 6 giorni a arrivare qua. Ma cos'è Alpine? Cosa? Che marca è Alpine, Alpine? Alpine. È della marca di quello che ho comprato io, è Alpine. Alpine! Alpine, sarà Alpino. Forse Alpina. Qua costa 168, 166, 149, su eBay, 124. Ehi, su eBay, da mazzo li costano più poco. Ma ti è arrivato? Il mio mi è arrivato in 3-4 giù. Adesso sabato scende in campagna e lo vado per la mia figlia. Gliel'ho tutto preparato. Ma di quello che si piazza No, l'assa è in due questa, per poterlo mettere in macchina, stacchi l'assa e lo metti in macchina, nel portapacchi, dietro, no? L'assa c'ha una farfalla e un chiolino, lo giri in casa e poi stringi la farfalla, gli dai mezzo giro ed è già il trinco. Poi quando hai finito giri la farfalla, tiri il piollino e ne vuoi la metà dell'assa. Beh, me la volevo prendere un decespugliatore. Beh, prenditelo da quello che ti ho detto io, costa poco e funziona a livello. Poi mi ho letto un po' di quelle che l'hanno già comprati, no? E a quanto ho visto un bel di enti, sono contenti, funziona bene tutto qui. Ma io non lo voglio che ci smonta. sono l'assa mi smuti, e se no te ce l'hanno anche con l'assa in tre a tutta lunga. Quanto costa quello? Costa quanto è quello lì, cioè che è smontabile e non smontabile, con l'assa tutta dritta, o se no quella che la smonti. Cosa conto l'assa? Che bacchetto mi ha detto, lui ce l'ha, dici no, non esci più l'assa, li sei incrasciata, babbo canina dice ha dovuto trattare. La mazzetta era un rascetto, a chi dici non si staccava. Ma su Wish l'hai coordinato, da Wish? No, io l'ho preso da un altro negozio, tramite Amazon. Poi ce l'ha su Wish, ce l'ha Wish. L'ho visto, si è spugliatore con il manubrio, 67 euro. Quello lì Wishy c'ha più 11 euro, più giorni ce l'hai a casa tua. Alpina, ti sei scritto? No, ma che tu non dai occhio. Ma qua non c'è sento niente. Anzi, aspetta, quello col manubrio non ho letto marca, quello che c'è su Amazon, mi vai su Amazon e guarda su Amazon, però non c'è il manubrio, e quello normale no, quel braccettino c'hai, quella staffa, su Amazon guarda, e v'è scritto Alpina, vai su Amazon, e se non ce l'hai scrivi, decce spugliatori, decce subito. Aspetta, controllo. Graziano, chi è? Qua c'è Alpina, Alpine, come dice Zizi, 169 euro, 160 euro. Quello l'ho comprato io, no, ma qui ce n'è anche, mi vedi sempre su Amazon, uno bianco, esce a vedere bianco mi pare, o giallo, Alpina. 119,80 centesimi. Poi ce n'è un altro, 104,90 euro centesimi. Attento, grazie a voi. 120 euro, sì, l'ho visto. Ma c'è tu qua su Amazon l'hai pagato 69 euro. No, io l'ho pagato di più. Aspetta Marina, mi senti? Lo senti a Marino? No. Adesso non lo sento neanche io, aspetta lo chiamo a vedere. Marino, ci sei? Adesso non lo sento. Poi ci sono anche i, vedi, perforatore, 99 euro. Poi a batteria però, Poi c'è il martello, 63,99 euro. L'hai visto? Sempre a batteria, amico. No. Sono più avanti del decespugliatore, dove c'è il decespugliatore da 119, poi c'è un pistone con le fasce, poi c'è l'altro tagliaerba da 104,90 e poi c'è il perforatore 99,95 euro, poi c'è il martello 63 euro, fa il martello avvitatore e trasellatore a batteria. Ho capito. Però di quello che ti ho detto adesso la batteria te la prendi a parte, non è inclusa la batteria, perché sono batteria e litio e costa. L'ho guardato stamattina, l'ho guardato quello. Adesso non mi ricordo quanto costa. La batteria te la vendono a parte. C'è qualcuno che vuole entrare? Mari! Stamattina ho sfuggito. sta in mezzo. No, io non sento per niente. Di sfuggita. Mi sto controllando se trovo l'LCD. Ho preso il telefono. Già costa un bel ancora. Ciao! Sì, anche lì costa un bel senso. Costa di più su Amato che su B. Seguri tu, scontati, in offerta. Mi sa che l'avevo visto a 100, 200 euro. Graziano, amico. No, Graziano, cambio. Non mi senti, Marino? Io ti sento, mi senti? Ciao, Bacchi, sottoterra, sì. Ma chi già alza il volume? No, non lo sento, grazie. Ma ti senta Marino, ma cavando due o tre voci. La tua risposta che deve essere non mi intende. Boh. Poi senti Tabacchigio che era sottoterra. Boh. Non lo so. Allora, qual è, guarda. Bacchigio, caduto sì. Marino, sulla tenna sì. Hola! Niente da fare, costa un bel. Costa sempre quella cifra lì. Allora, se costa 221 euro, se mi costa di meno. Ma cos'è un telefono? LCD, grazie. E cosa ti ne fai? Ho un telefono mio che è fasciato. Mi ha occupato la sua telefono. Vabbè. Non sarebbe un po' di tutto. Guarda che io su Amazon ce ne sono altri tanti in garanzia. Comunque si di na. Che cosa è LCD su voi tu? Vabbè. E allora, te lo danno contatto di garanzia anche nei negozi. Contatto di garanzia. Usato. Già funzionante è tutto. Che te lo vado a occupare a te, te lo compri già con quei soldi. E già nuovo, usato però nuovo. E perché? Se ti danno la garanzia. No, questo è il mio. Ma allora devi pindi. Io quei soldi non li avrei spesi per aggiustarlo, ma ne manco male mia. Avrei preferito comprarmene un altro revisionato dal negoziante con la garanzia, con chi si dirà. Mi chi faccio un telefono da 1000 euro, mi lo faccio un telefono da 700 euro. E non sapete, tra oggi come oggi i telefoni hanno tanti prezzi, anche quello più scadente che ti sembra funziona tanto chi su volo di marca, da 1000 euro. Dunque, siamo sempre lì, è inutile che ti guardi la marca, tu devi vedere il telefono che funziona di bene. La marca è un nome, stai pagando un nome, però ripeto, i componenti sono rimasti, non ti preoccupare. sempre la parte sinistra l'ha fatta i bici. O no? Cosa vuol dire buh? Il boyfriend che ho preso io in Cina e quello che ho preso qua, qua in Italia l'ho pagato il doppio di quanto l'ho pagato in Cina. Eppure sono preciso e funziona, come se funziona uno funziona l'altro. Dunque vedi, sempre se tu la cosa la controlli, sempre madre in Cina per scritto. Vabbè, una mezza. Però il pezzo vuole originale. Sempre originali sono, arrivano sempre dalla Cina. Allora non hai capito, il problema è che qui ce l'hai subito. Dalla Cina se te lo compri devi aspettare un mese e mezzo, due mesi. Però sempre la stessa ditta è quello che compri qua. Sempre in Cina l'hanno fatto. Ho capito. Boh, grazie, non lo so. Per il momento ci rimane così, poi si vedrà, magari me lo cambio. Questo è un telefono da 64 giga e poi mi trovo bene. È un ottimo telefono, veloce. Poi, sai, quando mi chiedono da riparare un telefono ci metto un attimo ad aprire internet. Ehi, ma io sto dicendo, se tu lo ordini quello dalla Cina, arriva dopo un mese e mezzo, due mesi, che poi se paghi con l'aereo ti arriva prima, però paghi un tot di più e cioè ti arriva prima, ti arriva. Quello che c'è qua è la stessa cosa di quello che è in Cina, quello che c'è qui arrivi sempre dalla Cina, hai capito? Non è che è differente, non è sempre la matercidita che l'ha fatto. Lo so, ci vieni sabato a farmi compagnia, grazie. E dove devi andare? La Olbia. E dove devi andare a Olbia? Accompagna la Marina che deve partire. Cosa? Dove devi andare? Dalla figlia. Ah, e dov'è? In che paese? Non ho capito. In che paese? In che città è la figlia? Bolzano. E cosa fa Olbia a Piombino? Piombino, Bolzano è in treno. Ah, boh. Ci va a fare compagnia? No. No, certo di no. Vabbè. Bello Bolzano. Lo so. E chi piace? Già lo so. Mi chiedo, se mi scappolo come ti sei tu, mi c'è la tua incontinenza a travagliare. E allora, che io non vi travagliavo pure. Se me la travaglio pure, me ne cadi a pure, non me ne farà mai non che amore di fatto. E allora, l'hai bruciata. Bello. Hai fatto bene. Tutto bruciato. E allora? Mi sono bruciato in parole. E no. Caspita, ti metti d'accordo con Marina, ti pone dentro una valigia. E allora, diventi contorsionista, ti fai minoretto. Ma non ci sto. Ehi, se ti vigi meglio abissai, tipo chi si chiama lo serpente, quegli indiani, hai visto si fanno piegare le gambe gli indiani? E che te quando arrivi anche chi su cui è morto senza ripidare. E che volete dalla banca parlare? Ma si chiama un cusso. E poi va. Illu. Per lo scarto, no? Ah, lascia perdere. Adesso è bella Bardonecchia, Salice Dulcio, lì è bello, c'è la neve, si scia, camminetta, tugna, albero di diabete, dritto dritto, ma lo sai che tu, uno spettacolo. È vero. Un profumo di pino, oh yeah. Embriaco di da dare un profumo di rubino. È vero. E allora? E si sono finiti di terra, di capinolo, belli cazzuti. Lo so. E poi mi facevo il cazzo. Sì, sì, erano i vetri freschi. Cazzuti, cazzuti, i pinuri. Quando lo spacco mi faceva un zocco, pac! E allora, lo puoi tirare un po' che sappia la giura. Grazie, è questo qua. Poi ci avevano quel profumo là, ti faceva venire appetito di mangiarli brutti. Io me li sbucciavo, me li mettevo dentro un bicchiere di ghiaccio di plastica. Caderà bene, non me li mangiamo. Tinavo un pugno, se non ammazzavo la dazza, mi finavo la bocca. È una pazziva. Ma lo sai che buono, Bonaretti. Te credo. Sono abusata. Dico, ma... Sono stessa da sbucciare, li mettevo vicino al fuoco, si aprivano da su, quelli qui, mezzo verdi. Grazie. Giovanni sei parito però, non ti mai. Sarà stracco, sarà in campagna. Si starà rilassando. Aspetta, grazie, mi buffo la tromba. Buffa, buffa. Ma chi io? Boh, deve essere se li cicate il cucco. Sono quel pane con lui, veramente buono. Sottile, sottile, è molto gustoso. Lo so, lo compro io, però ne mangio un poco, a chi mi taglio l'agnini. Lo compro, ce l'avevo un pacco qua, poi ne avevo una parte e ce l'ho mandata a mia figlia, quello che ci avevo chiuso, se no si guarda, e ha voglia che lo compro, però non è che ne mangi molto io, lì c'ho i crecche, quelli salati, quelli già me li mangio di più, là. Mi piacciono di più. Che ti penso buoni, gli spalmo quel formaggio in barattolo, cremoso, gli metto quello, ma quale, quello piccante? Ce l'ho piccante anche dolce, poi io taglio, portava il latte, il parmigiano, a sì. E... quello... C'è anche un'altra cosa che mi ha dato, ma mentre si chiama, solo non mi piace, non mangia mai più nulla. Non mi ricordo come si chiama. E a voglia di rimasto, ma non è sempre lì, non è stato che mi ha mangiato. Ma che massa, me lo vuoi. Aspetta, grazie a me. Grazie! Millumi! E beh, com'è nel continente? Ciao, Do! Cosa c'è? Continente, sì! Maledetto che ne faccio un buono giù da Versilia. Ma vai, vai. Vai, vai. Boh. Che è terrazza di gosi? Uno non può andare a accompagnare un ebù da Ruggampo che subito ha di che incontinenti. Continenti sei tu. Oh, perlomeno a me maledetto così che hai pigliato l'aereo da Versilia. La di chi ha detto che doveva andare a Versilia, dice che pure tu ci sei imbaccato. Mi ha inteso pensare in alza da rimani, mi ha inteso. A rimani no, che non viro. Ma in alza da rimani, mi ha inteso. Ma. Sicuro. La Gino Bacchi. Hai inteso a chi su? Boh, che incontinenti, No, già si sa va. Buonasera, dottore Graziano. Non ho ascoltato il discorso. Non so se ci sono anche altre persone, le saluto lo stesso. Avanti, to. Sì, c'è Graziano, poi... E Luca, altro non lo so. Boh, basta così per stasera. Andavi. Riprendetela, Grazia. Ehi, ciao, ma chi altro la derogiamo in agito? Deve essere, se li scicate il buco. Oh. Eppure Luca ti ha chiamato, no? Non ci hai sentito, Bacchi. Boh. No, Grazia, non ho sentito, sai perché? Perché non c'è l'antenna dentro la macchina. E sentivo tutto in mezzo al QRM, capito? Non mi sono accorto che non avevo piazzato l'antenna. Ah, eri senza antenna, io. E infatti ho sentito un passaggio, ma un bel basso a quanto ti sentivi. Anche a Marino, boh, e poi è sparito. C'è Luca che non so se è rientrato, c'è Luca rientratosi. Ehi, già sono qua, mi sentite, sì. Ehi, a Luca, buonasera, già ti sentiamo, come no. Già ti ascoltiamo. Vabbè, sto usando l'altro, vai, quello... L'altro, tanto piccolino. Ciao, Tore. Ciao, Luca. Mi senti, sì? Vabbè, io sono dalla parte sua adesso. Sì, io sento a tutti. Ma vuol dire che le ha fatto le orecchie. Gian Maria, c'era anche lui, però boh, o si sta rilassando perché oggi era in campagna lavorando, sicuramente, o si starà mangiando, rinfrescandosi, non lo so, vediamo se c'è. Ciao Mario. No, sparito, negativo, Tore. Sì, anda, anda. Ce la riprenda, signor Bacchi. Ehi, è sempre a me a riprenderla, guarda. E questo Marino, lo si è sentito, dottore, o Grazia? Oh, Marino, non si è affacciato? Sì, pochi momenti fa, l'ho sentito, è entrato nei pari. Attento, Marino, noto ronzino, ci sei? Oh, si sta piazzando l'antenna, chi mi ha detto di arrivare così in terra, l'antenna, controlla, boh. Attento, Rosmarino. Illu, ehi. Ah, tu, tutto fischi e fischietti. Ehi. Ti hai comprato il fischietto. E chi è che si ha chiamato Gian Maria? La tromba. Chi è che si ha chiamato Gian Maria? Buonasera a tutti, circolare. Beh, riprendo io. Buonasera Gian Maria, ben ascoltato. Graziano ti stava chiamando. Ehi, sento, terminato la questione, entro subito, dai, continuate pure, entro con un break, dai. Senti Muria, chi è rientrato? Sai che sto facendo cose, dai, stai aiutando la signorina qua. Ehi, ok, a dopo, là. Tore, l'hai sentito? Ehi, ho sentito, sì. Ehi, è travagliena, va. Via. Bene, bene, ma chi c'è, però tienitelo vicino al microfono, perché ogni tanto è ci basso, un po' alto, un po' basso, buh. Ehi, adesso mi metto più vicino al microfono e mi metto una sedia sotto i piedi, grazie, sono più alto. Perché infatti a giudizio, a ribone chi? Avano l'antesimo con Gian Maria Bacchizio. perché ti eri abbassato un bel, vero Tori? No, non è vero. È un calore, e non è vero. Ah, ma che? Oggi è tu. Luca! Sì, adesso mi assento 10 minuti, ti siete addosso. Arrivo subito. Eia, eia, fai così. Allora, cosa ci racconti? Macchi! Che ti racconto? Tagliare erba, tagliare erba, tagliare erba. Ehi, no, sabato scendo io con mia figlia e guardo come la taglia, gli do le direttive e la controllo. Ah, e chi è che lavora? Tua figlia, e tu guardi. E allora io non ne posso farlo. E da taglia gli dico come fare, consigli, già lo sa fare, già provato. Però glielo dico bene come fare prima, no? E beh, chiaro, devi spiegare un po' come usare la macchina. Eia. E intanto con due figli li hai piazzato. Ah? Figli quanto li hai messo? Due o uno? No, due figli ce li ho messi, a bulla. Dica, no, non ti credere che è molto grande, mi. Sono 2500 metri quadri, levare le due case, il piazzale, e non è che sia un poco altina, è già è altina l'erba, però come territorio non è che sia enorme, no? E no, io stavo tagliando stasera, non ce la faceva il disco, non ce la faceva il nylon, c'era quel cavolo di erba, fuori a sacchi, fitta come i capelli in testa, tutta bucata, no? Basta, mi ha rotto i piedi, no? Avanti, to. Sì, le direttive gli dà, hai compreso? Tu sei un macio, no, una femmina che devi fare un travaglio, buono un macio. Certo, non lo so, buio. Guarda che gioca a pallone, dunque è già un incrocio, Vittore. Io vedrò nulla, io una a fare un travaglio, un macio. L'altra la fa giugare. Se vai in campagna, vedi sa da Ucci, una signora da Ucci che è rimasta a vedova. Se la vedi vissuta, si vede da uomo la roba del marito. Se la vedi dagli anni ma tu non la conosci che è femmina, pare un uomo umano. Sì, vabbè, ma non sono tutti così, no. E chi cosa vi può tagliare l'erba? Lo può fare benissimo anche una donna. Guarda che non è che fai tutto questo sforzo per tagliare l'erba. L'erba la taglia un decespugliatore, tu ti muovi a dritti, a sinistra e buf, cammini piano piano e taglia. Noi che devi fare, sei forso, no? Hai compreso, Bacchi? Bebe! Ehi, era venuto la porta a travagliare. E quanti cc è con il disfugliatore, Grazia? 43! 43? Sì! È pesante allora. È pesante come macchina. Però le macchine, dove passa quella, brucia velocemente. No, che gli ho preso la cinghia di quella in crucio, capito. E il peso dunque ce l'ha diviso tra una spalla e l'altra. Ah, quello lì l'hai preso. No, io ce n'ho una che sono a una spalla e l'altra del 43 è una specie di imbragatura, un giubbotto in pratica, una specie di giubbotto. E c'è il gancio davanti. Anche quello lì già va bene, con quello ti dividi il peso. Ma siccome l'ha già collaudato con l'altro, già va si vede, già si arrangia, già lo sa fare, e poi vi diate fra me e Fennico, già lo sa fare, l'ha fatto da poco, ne ha fatto quasi la metà di campagna. Già si arrangia, capito? E non c'ero io il giorno che l'ha fatto. Però mi ha mandato il video. Sì, piano piano, grazie, perché la macchina è pesante e si stanca. Invece se è barata, pesa ancora. Se basta, sarebbe già stata subito. Avanti, Tom. Sì, boh, andiamo per andiamo, gatta. Ma siccome gli ho detto anche l'altra volta, almeno ti buri in capo, ti baci fino a far la tuta. Ogni tanto ti fermi, ti riposi e non lasci anche raffreddare, ti vi una cosa, ti bosi. Non è che fai come te li macchino, figli e passi, pizza che ne è tagliata non ti fermi. Capito? Già fino a tempo, piano piano gli arruvanti. Intanto premio non finne mi torre. Ora vieni in due di, ora vieni una di. Chiatta, tu sai cosa ti devi dare a tua figliura? No, me l'ha detto lei che la taglia lì, c'è un porta lì, non ne ha giurito io. Ma devi provare a tagliarla, vedi? Io dico che sono tornata a Sanca da Nessi, anche la prima volta che te lo fai, ne sono stato dolori. Era tutta dolori, la di chi l'ha fatto, un paio di ore l'ha tagliata, e poi si è inciulato il suo decespugliatore, e l'ho portata a aggiustare, chi ci mi ha detto a occuparmi l'uru. E l'indomani era tutta dolore e l'ha fatto burro livido, a chiesa si era appoggiata a un fianco e lei ci duro livido e l'ha detto perché non te lo dovevi appoggiare, lo devi lasciare dietro così, gliel'ho fatto anche vedere come mantenerlo. E poi la si rombava un fianco e l'ha fatto burro livido, l'indomani era buccia. Certo, bubu, non lo gioco, bacchi, bubu. C'è uno che faceva 27, che sa qual è? Marino dove sei? Marino! Stava provando l'antenna! Boh, non si sente, no, grazie, ha fischiato e non risponde nessuno. A me mi ha detto che la dovevi ancora lasciare per controllare la chiesa, noi la accenni bene. Sì, il casino doveva fare nera, il casino doveva fare nera, non so se ne ha parlato, boh, forse sì, sarà impegnato in antenna. E allora sta facendo le prove, poco fa l'ho sentito. Sì, ma potrebbe anche rispondere in qui, in PMR e poi andare in 27, vediamo un po' se risponde. Marino! Marino, ci sei? Hello. Marino Vaschi! È vero! Rosmarino, rispondi! È vero! È vero, Hello! È bel fuoco acceso, Ah, perché lo devo dire a te? No, ho capito! Perché mi ha detto Gian Maria che c'è la lettera di pollo oggi! Ehi, no, io segnavo un carone che avevamo fatto per cucinare due alette di pollo. No, la verità è che ti stai mangiando, era un salamino, mi pare che mi ha detto, lungo 20 centimetri. È grosso? Grosso ha detto, dai 50 a 52 e mezzo. Ah, ti piace, torre? Sì, e Venezia? No. Andare, ciao Luca! Ciao Tom, buonasera! Andiamo dove andiamo, signor Bacchi? Fukamassan! Ehi, ciao Luca, buona serata! Non è giornata di accendere fuoco lì a Graziano, per il vento! Luca! Comunque mi ha detto l'altro Luca che ti piacciono un bel quei salamini che te ne mangi un bel, vero Perché li mando giù interi! Luca, mi ha detto così, Luca cosa, mi manicomio. Per forza te l'ha detto, solo uno che ci dà lo manicomio te lo può dire. Ma ha detto che ne mangi un bel a chilometri. Perché c'ho gli sconti, ho capito. Ah, la carta sì c'hai. Luca, rientrato sì, aspetta che chiediamo la conferma. Ehi, fammi andare ad assaggiare i bavetti, vero Bacchi? Non si capisce più niente. Chi fischia non si sa. Indovina chi è il graziato, a vedere un po' se indoviniamo. Boh, il fischio non l'ho sentito io, non ce l'ha accesa la 27. E accendi la 127, non ce l'hai avuta la 127. No, me l'ho venduta la 126, faccio. Deve essere questo fischio, ma è basso. Fischia è basso, e allora il marino sta provando a vedere con il fischio. Ora riprendi. Sì, riprendo. Andemmo. Ma no, non mi sembra lui, Bacchi. Bacchi, aspetta che ci provo. Provaci. Vediamo un po' se lui già si affaccia. Luca Flipper, dici che hai fatto Piazza d'Italia. Dici, lo principale che hai fatto Piazza d'Italia, tutto bello, lucido, tutto bello. No. Già tenerla pulita la campagna. Dici che l'hai bruciato con tuvina. Tauri contro Tauri, vabbè, era di Franzichi. Ma roba dei 30 anni fa, tapparelli, viene a bocca e mondezza, oiuia. Chi che è pizza? Di 30 anni fa, vabbè, già mi l'ha detto che la roba che accumulava prima, tutta roba che si farava la rubava. Ah, io campagna lo stesso, è tutto pulito da noi, tutto zaggiulampato, ferri, ferretti, tutto, pure la legna non si via la via, tutta bruciata. Non mi ha fatto bene, dopo mi ha posto il testamento a me, così che sono con proprietario, va. E allora tratta Rubei, così ti pigli Rubei. Ma se sarà un putre bagnato o sei fatto? Con la buccia. E non si può, se non ti fa mangiare tu un salamino di 20 centimetri, veramente. Ma che c'è via cantuera? A 13. Ah, capitano, da vera. Perché il salamino, la salsiccia, la glicemia ti sa? No, appena. Io mi la mangio, no, che la salsiccia affetti anche quel salamino. L'udrancia affetti. Vabbè, me ne mangiare giù di salsiccia 5-6 rotelline, 3-4 di salamini. Fate la sala che si viaggi perché c'è sale, c'è il grasso, insomma, i condimenti, altro che. Vabbè, ma magari io no, che ne mangio uno in trio, me ne mangio a fette. Un paio di fette di uno, un paio di fette dell'altro, un pezzo di formaggio di quello, un pezzo di formaggio di quell'altro, e il trubaghettaggio. Lo so, ma fa male, capito, grazie. Fa zimari, fa male, fa male. Luca, Flip, tu cosa pensi? Che fa male? Allora che ancora mangi? Luca! Dunque sta mangiando, dunque non si può rifondire. Bene ragazzi, io vi devo lasciare che mi hanno chiamato. Ciao Grazia, grazie delle quattro chiacchiere, saluta la signora, domani si coincide. Ciao Luca, buona serata anche per te, buon questo ancora. Ciao Tom, salutissimi, saluta la signora, domani si coincide con tutte e quanti. Ma chi si passa in QRT? Ciao a tutti, belli e brutti. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime, dai. Grazie, chiudo anch'io, che c'ho gente e non posso entrare. Ok, ci sentiamo. Ciao Luca Flippe, ciao Gian Maria, se l'ascolto. Ce la risentiamo a domani, anche io chiudo. Vai Tore! Sì, anch'io sto chiudendo, che c'ho gente, c'ho. Ok, ci sentiamo alle prossime. Ciao, grazie. Ciao Luca e ciao all'altro Luca. Ok, ciao a tutti. Ok, ciao Tore, ciao a tutti. Ciao Luca, a domani. Ciao a tutti, ciao. Ehi, dai, ciao a tutti, allora, dai, buona cena, ciao Bacchisio, ciao Graziano, sono da Paoletta, anche da parte di Marina, ciao Tore, anche a te. Ciao a tutti, Dio Maria, a tutti, buona sera, ciao, domani. Ciao, ricambiata domani, anche da parte di Paletta, ciao. Ci sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attenzione Antonello. Prova un po'. Ti senti Antonello? Sì, che ti ascolto. Attento Antonello, cambio. Ehi, ti ascolto io, ma tu non senti a me. Antonello, cambio. Mi senti? Attenzione Antonello. Io ti sento, ma tu non mi senti, Maria. È strana la cosa. Veramente strana. Mi senti adesso? Certo che ti sento, io ti sento sempre. Antonello, mi senti? No. Attenzione Antonello. Ehi, Mario, attacca la antenna. Io ti sento, ma tu non mi senti, no? Io ti ascolto, se tu senti adesso. Antonello. Attenzione Antonello, Antonello cambiò. Attento Antonello. Attenzione Antonello, Antonello. Io ti rispondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu non mi senti per nulla, così. Vabbè, adesso mi ascolti. 1, 2, 3, mi ascolti a tutti, mi ascolti. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Cosa non faccio la massa? Sto utilizzando l'altro. Ho visto se c'è il cammino, se sta che le cose piene, va. Vabbè, quello lì c'è una cazzata, va. Adesso sto utilizzando l'altro, l'altro sto utilizzando, mi ascolti, sì. Sì. Bene, e con questo bene sta ricevendo, sì.